Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con il regista Fabrizio Bancale per parlare del suo documentario Famosely, i residenti illegali di Chernobyl, in onda domenica 26 aprile su Rai 1, speciale TG1, in occasione del 34esimo anniversario del disastro nucleare. Fabrizio, ben trovato. Ciao, buongiorno, ciao a tutti. Ci racconti di questo lavoro? Sì, come sempre gran parte dei lavori nasce in maniera abbastanza casuale, perché in occasione del 30esimo anniversario della catastrofe di Chernobyl mi avevano chiesto di fare un documentario per raccontarsi appunto 30 anni dopo la situazione. A me la cosa interessava relativamente poco, perché ho pensato chissà quanti andranno con mezzi maggiori budget, eccetera, a raccontare la stessa cosa, e quindi sarebbe stato un attimo sicuramente significativo. Invece fortunatamente sono entrato in contatto, grazie a Giancarlo Pagliara, che è un fotografo che era stato precedentemente lì a Chernobyl e il produttore Massimo Stendi, con un gruppo di persone che praticamente all'epoca, subito dopo la catastrofe, si sono opposti all'evacuazione stata imposta dalle autorità sovietiche e sono rimasti a vivere lì. A distanza di 30 anni alcuni di loro sono ancora lì e per 30 anni hanno vissuto solo ed esclusivamente con il poco che riuscivano a coltivare nei loro orticelli, e quindi contro tutto e tutti, contro le disposizioni governative, contro le indicazioni sanitarie e contro tutti, loro sono sopravvissuti. Immagino anche senza servizi, acqua e luce. Inizialmente anche senza acqua e luce, poi dopo che le autorità hanno provato a cacciarli una, due, tre volte, loro di notte sotto la pioggia, con il freddo, ritornavano nelle loro abitazioni. A distanza di un anno sono stati quasi costretti a dai diminui indispensabili per sopravvivere, quindi in quel limbo di luce e di acqua, nella consapevolezza e nella convinzione assoluta che sarebbero vissuti per pochi mesi, perché chiaramente erano le persone più radioattive e si trovavano a distanza di altri pochi chilometri dal reattore. Non avrebbero mai immaginato che questi sarebbero sopravvissuti per oltre 30 anni, insomma parliamo di 34 anni fa. Com'è stato l'approccio? Come ti sei avvicinato a loro? Mi sono avvicinato con un enorme, per prima cosa, stupore, perché chiaramente, voglio dire, per quello che noi, diciamo, occidentali sappiamo, per me erano degli alieni. Cioè, se io penso che io, bambino, nella mia città a Napoli, non potevo prendere, mangiare la verdura o bere il latte, e immaginare che invece persone per 30 e passi anni hanno vissuto a 2 chilometri dalla centrale mangiando le carote o le patate che nascono sottoterra, quindi sono addirittura radioattivi o addirittura i fucchi, o andavano a pescare e mangiavano i pesci del fiume Pripyat, perché è il fiume più radioattivo della terra, e sono assolutamente sopravvissuti, per me erano appunto degli alieni. E quindi dalla parte c'era questa curiosità estrema, ma dall'altra parte, ed è questa forse la cosa più interessante, c'era una sorta di curiosità anche da parte loro, perché loro erano quasi increduli nel dire: e tu sei venuto da Roma, dall'Italia, a farsi anche interessare lei. Cosa c'è di interessante nella nostra storia? Qui si apre tutto l'altro file che è particolarmente interessante, perché praticamente loro è come se non avessero la loro vita, le loro abitudini, non sono cambiate tantissimo rispetto a prima della tragedia. Cioè, è vero, i paesi si sono svuotati, sono soli, sono pochi, ma loro si reputano quasi gli stessi che erano prima, cioè dei contadini che vivevano di quel poco che la terra gli offriva, con pochissimi mezzi a disposizione, e quindi c'era questa sorta di reciproca curiosità, secondo me molto interessante. Tra quanti sono rimasti, quanti se ne sono poi andati, sono morti per cause legate alla contaminazione? Chiaramente ovviamente parliamo di cifre non ufficiali, non esistono cifre ufficiali, questi sabotei non esistono. Orientativamente sui 336.000 persone che sono state evacuate, i sabotei sono stati intorno tra i 1.000 e i 1.100 e quindi sono ritornati. Oggi sopravvivono un centinaio, quindi voglio dire un 10%, e tutti gli altri sono chiaramente morti, però parliamo di persone anziane, perché erano tutte le persone che chiaramente non si sentivano in grado, non avevano voglia di ricominciare da capo, una nuova vita in un altro paese, magari in città, loro persone di campagna, quindi parliamo di persone che gran parte di loro sono morte di vecchiaia, sarebbero morti comunque probabilmente. Per quanto riguarda quanti sono morti di malattie, eventualmente tumorali o cose del genere, io purtroppo non ho avuto accesso a dati, ma sinceramente fosse stato anche soltanto uno ad essere sopravvissuto, per me era una storia che meritava di essere raccontata. Di questo incontro che impressioni ne hai ricavato? Domanda difficile, perché chiaramente ogni volta che ripenso a quella settimana che abbiamo passato al Chernobyl è un susseguirsi di emozioni enormi. Uno legato veramente proprio a questo paesaggio post-atomico, che tu cammini per campagne e non trovi niente, città totalmente abbandonate in maniera spettrale, con questa atmosfera veramente da film, da quei film catastrofici, uno dice riguarda di no, è eccessivo, e mi si accorge che di eccessivo non c'è niente, questa solitudine, questo silenzio, questi odori strani, un odore che non sono mai riuscito a capire che cosa fosse, perché era una specie di disinfettante ma non era disinfettante. E dall'altra parte, in contrasto con tutta questa solitudine, questo quello che ho appena detto, l'enorme infinita umanità di questi sabusei, che non vedono esseri umani da anni, perché appunto loro ogni tanto si incontrano e si vedono tra di loro, ogni tanto qualche parente viene a trovare, ma vedete, vivono della più assoluta solitudine, e quindi il fatto che qualcuno possa essere venuto da lontano per andare a trovare, parlare con loro, è stato per loro un gesto molto importante, quindi mi hanno accolto come si accoglie veramente un ospite ad onore, hanno messo in piedi, hanno apparecchiato nel modo migliore, mi hanno invitato a cena, cucinando quello che potevo cucinare, e credendoci assolutamente che io restassi con loro come uno di famiglia, e questo io non lo dimenticherò mai. Posso aggiungere un'altra cosa, che forse è quella emozione più importante, alla fine di qualcuno intervista, tutti mi abbracciavano dicendo mi raccomando, la tua testimonianza sarà la nostra ultima voce, e quindi mi raccomando. E quindi per uno che fa il mio lavoro, in questo caso di documentarista, cioè di documentare qualche cosa, è avere la consapevolezza di essere l'ultima persona che può raccontare la storia di delle persone, mi ha da una parte riempito di gioia e dall'altra parte responsabilizzato, perché appunto questo crimine che loro hanno detto deve arrivare a più persone possibile, perciò sono felicissimo che qualcuno trasmette il documentario. Un'altra curiosità, chiaramente da quello che dici si capisce che giovani non ne erano rimasti a suo tempo e quindi nascite non ce ne sono state. No. Parliamo, io sono sempre di una certa età, appunto fondamentalmente contadini, che non hanno accettato questa decisione delle autorità sovietiche di andare in altri paesi, e sì, non c'era niente, uno perché volevano morire nelle loro abitazioni, perché ormai erano vecchi, quindi parliamo di persone, cioè quelli che hanno intervistato sono tutte persone che stanno intorno all'ottantina, quindi all'epoca avevano almeno 50 anni e erano tra virgolette giovani. Chi chiaramente aveva bambini, aspettava figli, o aveva intenzione di farli, sono scappati tutti quanti, perché chiaramente il rischio nei confronti dei bambini era altissimo, nei confronti delle persone, questa è un'altra cosa che ho scoperto qui stando lì, nei confronti di persone adulte, cane, eccetera, evidentemente l'organismo umano rischia di assimilare le radiazioni, non diventando mortale, cosa che invece è stata per quanto riguarda i bambini, i feti e quant'altro, quindi no, parliamo solo di persone anziane, anche perché aggiungo, questa è la questione che è stata effettuata, è stata fatta talmente improvvisamente che nessuno ha avuto neanche la consapevolezza, cioè è stato detto, e questo è il documentario molto chiaro, che si sarebbero allontanati solo ed esclusivamente per 3 giorni. Quindi nessuno ha portato con sé neanche idee di prima necessità, neanche documenti e nulla, e improvvisamente si sono trovati a non rientrare mai più nelle loro case, mai più a poter vedere i propri effetti personali e quant'altro. E questa evacuazione è stata fatta chiaramente nell'assoluta emergenza, smembrando anche intere famiglie, perché gli alloggi erano quelli che erano spazi, diciamo, in Ucraina. E quindi uno andava in una città, uno andava in un'altra, e si è creata una vera e propria diaspora di duri, perché, e questo è un altro tema molto importante, la popolazione di Chernobyl dovunque è andata non è mai riuscita ad integrarsi, perché dovunque venivano considerati come gli untori. E quindi alla drammaticità, alla frangiosa che avevano vissuto, si aggiungeva un'altra, che era quella che quando camminavano per strada la gente si metteva le mascherine e l'impossibilità di un'integrazione. A questo punto quanti hanno detto, a questo punto se io devo morire, tra virgolette, socialmente in questa città, voglio morire realmente, almeno nelle mie terre, a casa mia, dove ho sempre vissuto. E questo è qualcosa, secondo me, anche molto poetico, molto romantico, che mi ricorda quasi ad una letteratura, cioè questo grande attaccamento alla terra, e la chiamano loro la loro madre terra. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più sul tuo lavoro? Alessandro Favoni, che è l'ufficio stampa, ha creato una pagina dove si possono vedere tutte le foto, sinossi, informazioni e quant'altro, quindi www.alessandrosavoia.it. Ma soprattutto io spero che non si ha curiosità un'unica sera da questo documentario, perché secondo me può raccontare tante cose e anche in maniera piccola capire qualche cosa di più di quello che sta succedendo oggi, perché secondo me c'è un piccolo filo rouge che collega quella tragedia con quella che stiamo vivendo di oggi. Samoseli, i residenti illegali di Chernobyl, domenica 26 aprile su Rai 1 all'interno di speciale TG1 in occasione del 34esimo anniversario della tragedia nucleare. Un saluto e un ringraziamento al regista Fabrizio Bancale. Un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie. Ciao, ciao. Con Rodrigo Diaz, direttore del Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste, per parlare della Cineteca online del Festival, con più di 1000 titoli gratuitamente disponibili. Ben trovato. Altrettanto a voi, anzi con tanti auguri, in questo periodo non è banale l'augurio. Ci racconti di questa iniziativa? Sì, è un'iniziativa che cammina da parecchi anni. Abbiamo trovato la congiuntura a gennaio scorso, le condizioni attuali in cui si devono organizzare gli eventi che tutti conosciamo ci hanno permesso di accorciare i tempi lavorandoci in continuazione. Devo dire che è un progetto che camminava da almeno 15 anni e che finalmente, con un meccanismo stupendo e con una politica di alleanze di un certo tipo, abbiamo potuto offrire questo servizio. Com'è stata intanto la scelta dei titoli? Già sono 1000 e sono delle scorse edizioni? Sì, la scelta in realtà non è nostra. Noi ogni anno, quando invitiamo la gente ad aderire per partecipare al festival, nell'entry form chiediamo, in modo optativo naturalmente, chi vuole partecipare a un concorso premio, che però implica anche accettare che il loro film sia nella piattaforma del festival. Così si sono sommati una quantità di titoli davvero straordinari. Da questo momento in poi possiamo dire che faremo delle scelte. In che senso?

regista Riccardo Rodolfi sul suo documentario Urge in 4 cinema online dal 24 al 26 aprile 2020. Riccardo, benvenuto su Radio Onda Rossa. Ben trovati, complimenti, te li facevo dal vivo lunedì a Roma, li rifaccio pubblicamente adesso. Grazie, state ti ringrazio. State facendo un grande lavoro, sappiate, state facendo un grande lavoro. Bene, bene. Questo soprattutto allora, per il teatro. Questo però è un ambito di cinema, per chi ci ascolta diciamo un po' di cosa stiamo parlando, cos'è Urge? Allora, Urge è, come dire, la fedelissima ripresa dello spettacolo teatrale di e con Alessandro Pergolongoni, che ha girato per 3 anni in Italia e ci sembrava, come dire, giusto tentare un esperimento di traduzione, no? Da un media a un altro media, però senza cercare di fare le cose spicchevoli, per cui la ripresa del live. Volevamo fare proprio un altro prodotto. Abbiamo provato, grazie alla tecnologia del digitale, che oggi ti permette di girare con più camere, ovviamente, confesso, con minori costi, e la cosa ci ha divertito molto, tant'è che è piaciuta anche a un distributore che è Exit Media, che ha deciso di prenderselo e di provare le sale indipendenti un po' come one shot, come evento speciale, copiando un po' dalle dirette della Scala piuttosto che dal Royal Ballet, oppure rifacendosi a quello che succede col mondo del rock, Roger Waters con The Wall, Springsteen and I, cioè, e forse è la cosa alla quale siamo più vicini. Cioè, cercare di ridare il senso di un fenomeno live, che in questo caso è drammaturgia, pur essendo teatro comico, monologante, ma per permettere un altro tipo di prospettiva nei confronti dello spettacolo live. Questo è un po' l'esigenza primaria. Sì. Riccardo, procedendo un po' a ritroso, leggo che il vostro rapporto è trentennale. Allora, mi incuriosiva molto il percorso umano e artistico che avete fatto insieme. Ah, sai, quando si parla di questa quantità di tempi, cioè non si parla più di collaborazione artistica, si parla di vite, no? Si parla di sodalizio, si parla di storie che si vanno a intrecciare, di storie comuni intrecciate, per cui devo dire che la quantità di tempo non pare a me, a Sandro non pare neanche quella, perché in realtà c'è successo talmente tanta roba in questi anni, anche di evoluzione e involuzione, no? Sempre questo costante rapporto. Ed è chiaro che ci deve essere qualcosa di più, perché sennò in 30 anni io credo che non esista coppia artistica che non rischi di esaurire completamente ogni fila di idea che ti può venire, hai capito? E quindi sai, no, abbiamo una storia molto complicata, perché eravamo in 3, poi Claudio Calabro, che era il motore del gruppo, ha avuto un incidente, quindi non riesce più a lavorare, e quindi ognuno di noi si è ripartito una parte diversa da quello che aveva in precedenza, quindi abbiamo anche variati ruoli, al di là di Sandro, di Alessandro, che rimane il frontman per eccellenza, e come io continuo a dire, la vera avventura di questi anni è stato lavorare con Bergoglio, sì. Perché comunque vi assicuro che non è un artista facilmente riscontrabile o paragonabile con qualsiasi altra cosa si vede in giro. Ecco, proprio da questo punto di vista, Riccardo, un acrobata del surrealismo applicato alla parola. Dicevi giustamente, non ci sono cose simili in giro a partire dall'Italia. Come nasce questo suo approccio al lavoro? Come dice sempre Sandro, e io trovo che sia una cosa non solo molto intelligente ma anche molto vera, Sandro non è uno scrittore, Sandro è uno scritturato. Queste cose gli vengono assolutamente automatiche. Alessandro ha le antenne, fondamentalmente, quindi vede delle cose o percepisce delle cose che altre persone non vedranno mai in tutta la loro vita. Questo è la percezione del linguaggio, ma se andiamo a vedere bene, ormai in questi anni siamo andati a girare il concetto del linguaggio proprio a livello semiotico, ovvero sia andiamo a vedere il concetto che c'è dietro, la significanza di quello che dice Alessandro, che in realtà nei primi spettacoli poteva veramente essere un calambone, un gioco di parole, ma sono anni che questo invece rimanda non solo a un pensiero ma anche a un comportamento molto etico. Secondo me stiamo andando avanti aiutando associazioni, parlo, non so, della Casa dei Risvegli di Bologna. Non è un caso che noi, che abbiamo sempre lavorato sulla parola, ci rivolgiamo a coloro che parola non hanno da anni, cioè Questo è il ribaltamento che succede nel nostro lavoro. Così come andiamo a pensare di essere vicino a un Don Ciotti contro le mafie o con, che ti devo dire, la mensa di Morgantini a Bologna che dà da mangiare sia ai poveri che agli extracomunitari, cioè proprio a ridare voce, visto che noi ne abbiamo tante, le parole le usiamo tante, ma a noi quello che interessa dietro è proprio il retropensiero che c'è dietro, o il pensiero in quanto tale. Cancella retro, tieni solo pensiero. Sì, sì, sì. Riccardo, tra l'altro, nello spazio radioteatro avevamo mandato in onda la Lezio Magistralis che lui aveva tenuto al Festival di Filosofia un po' di tempo fa, neanche troppo. A questo punto speriamo di avervi nuovamente con noi, sempre nello spazio teatrale, con altri lavori. Per noi sappi che è un onore e un piacere lavorare con chi ha ancora il coraggio di parlare di teatro in conversazione. Lo dicevo in conferenza stampa a Roma, cioè per noi il problema della televisione non esiste, nel senso che esistiamo lo stesso. Cioè l'Italia è un'esportatrice di fenomenali talenti teatrali sconosciuti al popolo televisivo. Certo. Rifaccio i nomi che facevi in conferenza stampa: Raffaello Stanfio, Ricci Forte, Albe, Motus, Babilonia Teatro, noi. Cioè, il problema nostro è che noi abbiamo una vita fa, abbiamo fatto dei passaggi, ma non c'è niente di demoniaco in tutto ciò. Vi volevamo ringraziare perché invece fate un grande lavoro, che è quello di far sentire che c'è della drammaturgia seria in Italia, e ce n'è tanta. Bene, bene, sono contento. Va bene. Il film è autoprodotto da noi stessi, cioè quindi ce lo siamo prodotti noi, e distribuito da indipendenti, quindi più liberi di così non è abbastanza complicato. Benissimo. Riccardo, un abbraccio, un in bocca grazie al lupo e alla prossima. Ciao, ancora ciao, complimenti. Ciao, grazie. Grazie, ciao. Il regista Riccardo Rodolfi sul suo documentario Urge, in 4 cinema online dal 24 al 26 aprile 2020. La regista Chiara Cremaschi, che fa parte della brigata Ermanno Olmi, registi e registe bergamasche, che hanno messo i loro film in streaming per sostenere la rete di volontari di Super Bergamo. Chiara, ben trovata. Ciao, ben trovato. Ci presenti questa iniziativa? Sì, volentieri. Allora, l'iniziativa nasce appunto da una costola di Super Bergamo, che è una rete di volontari che nasce inizialmente dal MAITE, che è un'associazione culturale che fa parte del Circolo dell'Arci. SUPER è l'acronimo di Supporto Unitario Popolare e Resiliente. Da subito ci sono messi in movimento dal 23 febbraio, perché come forse si saprà, Bergamo è una situazione molto dura da subito, e c'era necessità e urgenza di aiutare le persone in difficoltà, soprattutto per la spesa, farmacia, bombole, ossigeno, così. E inizialmente tutto questo è stato fatto dai volontari gratuitamente, poi si è cominciato a capire che c'era bisogno di un supporto per anticipare la spesa, e perché alcune persone che si trovano in difficoltà sempre più gravi potessero comunque avere almeno le basi per poter procedere. Quindi la Brigata Ermanno Olmi è solo una delle costole di Super Bergamo, e nasce appunto come un primissimo gruppo di collettivo di registi, a cui se ne sono uniti altri. Adesso siamo tantissimi, sono quasi 30, e quasi 30 anche i film, principalmente cortometraggi e mediometraggi. Come funziona materialmente? C'è una piattaforma che si chiama appunto Brigata Ermanno Olmi, a cui si può accedere. Abbiamo fatto un pacchetto di lancio per cui si possono vedere 7 film facendo una donazione di 10 euro, e dai prossimi giorni ci saranno diversi pacchetti a 12 o così, insomma, comunque sempre da 7 a 14 film alla volta, e i soldi andranno direttamente a Super Bergamo. Allora, ogni pacchetto comprende, come ti dicevo,